America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York. Mario Platero, turbolenza, terremoto piuttosto, sentiamo. Sally Yates, she's the acting attorney general and she has just instructed Justice Department lawyers not to defend the executive order. Bene, sull'ordine esecutivo per l'immigrazione interviene Sally Yates, segretario alla giustizia ad interim di nomina obamiana, e lo dichiara illegale. Che succede? President Trump firing the acting attorney general and Obama administration appointee for refusing to defend the executive order on travel restrictions for immigrants. Beh, esplode il caso perché, come avete sentito, Donald Trump accusa la Yates di aver tradito la sua amministrazione e la rimuove. Al suo posto nomina Dana Bont, un procuratore federale della Virginia repubblicano. Beh, non so se sia stato opportuno in questa situazione esplosiva l'intervento della Yates. Se ne dibatte, vedremo come andranno a finire le cose, ma questa crisi che ormai diventa istituzionale, le proteste, il caos ed altro, sentiremo perché c'è altro, non fanno certo bene ai mercati. Wall Street è preoccupata, ieri archiviato la peggiore seduta del 2017, tutti e tre gli indici sono andati in rosso, il Dow Jones è sceso sotto quota 20.000, perso lo 0,63%, colpa del caos negli aeroporti, dell'ordine esecutivo contro l'immigrazione di Trump, certamente questi sono stati fattori scatenanti. E se non che ieri, fra le varie dimostrazioni che hanno contribuito al pessimismo a Wall Street, abbiamo visto un fatto nuovo. The president's aggressive immigration agenda has Silicon Valley preparing to take on Mr. Trump. Ecco, avete sentito il newscaster? Che è successo? Che dalle piazze la protesta per il decreto anti-immigrazione di Trump si è estesa al corporate America, le grandi aziende americane. Devo dire, un'alleanza fra piazza e imprenditori è uno sviluppo imprevisto che rimescola le carte, indebolisce la Casa Bianca, anche fra molti centristi che avevano votato per Donald Trump. Insomma, l'equazione è cambiata rapidamente e secondo me Trump farà bene a tenere conto, perché qui non si parla di commerci, di barriere tarifarie, di riportare posti di lavoro a casa, obiettivo in parte condiviso da molte aziende, di molti settori. Qui si parla di mettere in crisi un valore centrale delle aziende americane, perché i dipendenti globali di una multinazionale sono certamente cittadini del loro paese di origine, ma sono anche cittadini orgogliosi di una grande azienda che per definizione non discrimina, promette meritocrazia, opportunità, amalgama differenze in una singola grande identità aziendale, porta innovazione, addestramento, cultura giuridica, imprenditoriale in paesi che magari cercano lo sviluppo. Truth be told, I never graduated from college and this is the closest I've ever gotten to a college graduation. Ecco, ci sono casi molto concreti. Avete riconosciuto questa voce? Non so se qualcuno l'ha riconosciuta, ma è Steve Jobs, fondatore della Apple Computer, padre siriano. Beh, la Apple naturalmente ieri ha protestato e ha rivendicato la necessità di superare questo impasse. Ma l'Apple non è stata sola, hanno protestato anche Tesla, Microsoft, Google, Facebook e molte altre. Qui per Silicon Valley non è solo questione di discriminazioni o di valori, è anche una questione pratica, è quella di poter lavorare senza problemi con dipendenti globali. Qualcuno può dire, vabbè, ma insomma qui stiamo parlando di 7 paesi e alcuni di questi sono paesi difficili. Ho capito, però la protesta del corporate world è che poi se si parte così, poi chissà dove si va a arrivare. È una protesta limitata all'high tech? Qualcuno dice sì, per certo l'high tech simpatizza con l'Hillary Clinton. Niente affatto. Per esempio, si è aggiunta la Ford. Sentiamo. We're investing $4.5 billion in electrified vehicles and we announced today that we're going to be producing here in our facility in Flat Rock, Michigan. Ecco, l'amministratore delegato Mark Fields. Pochi giorni fa, non so se lo ricordate, ve lo raccontavo, celebrava il suo compleanno alla Casa Bianca con Trump. Trump gli ha cantato Happy Birthday. Non solo, Fields annunciava il trasferimento di un impianto dal Messico all'America. Dunque, c'era una luna di miele. Eppure è intervenuto durissimo, affiancato tra l'altro dal presidente, dal chairman Clay Bill Ford, che è un discendente diretto del fondatore di Henry Ford. Ecco, hanno criticato questo tipo di discriminazione che bypassa il Congresso, dimenticando che il presidente propone, ma è il Congresso che poi dispone. Ecco, nel caso della Ford c'è qualche cosa in più, perché il modello societario inclusivo alla fine ha prodotto un personaggio come questo signore. Sentiamo. We were fighting for our survival. in essence, would have meant effective nationalization of the resources industry in Australia. Ecco, qui non vi chiedo di riconoscerlo, sarebbe un po' più difficile, però è Jack Nasser. Il nome, devo dire, è rivelatore. Jack Nasser è stato amministratore delegato e president, cioè direttore generale della Ford, fino al 2001. E questo signor Nasser è figlio di un autista, di un autobus, nato in Libano, partendo da zero è arrivato ai massimi vertici. Insomma, possibile che la Ford rinegasse la sua storia e i suoi principi di apertura? No, non è successo e ha colpito duramente. E chi è quest'altro signore? In terms of the last quarter that we announced, we had good results across the globe. Ecco, lo sentite? Dice, beh, abbiamo avuto un buon risultato intorno al globo. Il suo nome è Mukhtar Kent. È l'amministratore delegato e il chairman, il presidente della Coca-Cola. Nato in Turchia, distribuiva bottiglie su un camion quando aveva 20 anni, poi è stato assunto, ha fatto carriera, ha girato intorno al mondo, alla fine è approdato ad Atlanta ed è diventato il capo della Coca-Cola, che è un simbolo stesso dell'America del mondo. We're going to put the safety of Americans first. The president's going to be very proactive with protecting this country. We're not going to wait till we get attacked and figure out how we can make sure it doesn't happen again. Ecco, Sean Spicer, conferenza stampa alla Casa Bianca, dice: la nostra priorità è la sicurezza degli americani. Il presidente continuerà ad essere molto attivo per proteggere il paese. Non attenderemo di essere colpiti per risolvere il problema. Continuerà a fare tutto ciò che è nel suo potere per prevenire queste minacce. Il problema è che le minacce non ci sono. Abbiamo visto che gli attentati che sono stati qui negli Stati Uniti erano stati purtroppo condotti da cittadini americani nati qui, poi coinvolti nel movimento islamico. Insomma, alla Casa Bianca non hanno capito che non c'è un baratto fra sicurezza, terrorismo e libertà civili, soprattutto quando non ci sono documenti che magari possono metterci in guardia, e quando la decisione è presa solo per una promessa elettorale, tra l'altro dicono gli esperti inefficace, perché se un terrorista vuole fare un attacco riesce a trovare il modo di farlo, serve a poco. La retorica e l'azione aggressiva per visti e frontiere di Trump, insomma, si è sgretolata su un fronte che il presidente riteneva incrollabile, come ha detto Spicer, rivelatrice è stata quella sua dichiarazione, e cioè quello della lotta al terrorismo. Ma le due cose alla fine si sono scollate. Per Trump la lezione continua. Il mestiere del presidente, beh, questo lo sappiamo, lo si impara nel giorno per giorno, e Trump in fondo è alla Casa Bianca da una settimana e continuerà ad accorgersi, immagino, ma dovrà imparare la lezione, che promettere è molto diverso dal governare. Sarebbero migliaia di approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione ma apre come sempre una nuova frontiera inesplorata. Potrete continuare a trovarli su americano24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, abbiamo visto l'America in movimento, un'America che tutto sommato si trova abbastanza unita su questa necessità di proteggere il diritto all'accesso, e dunque un classico: This land is your land. This land is your land, and this land is my land, from the California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. As I went a walk in that ribbon of highway, I saw above me that endless skyway, saw below me that golden valley. This land was made for you and me. I roamed and rambled, and I followed my footsteps to the sparkling sands of her diamond deserts. All around me a voice was sounding, this land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling, and the wheat fields waving, and the dust clouds rolling. The voice was chanting as the fog was lifting, this land was made for you and me. This land is your land, and this land is my land, from California to the New York Island, from Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling, and the wheat fields waving, the dust clouds rolling, the voice coming chanting, and the fog was lifting. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!